si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua in diretta con Si può fare, sono le 8:34 minuti, saremo insieme fino alle 11, come sempre uno sguardo ai giornali di oggi per chi non avesse sentito la rassegna stampa più dettagliata fatta quasi un'ora fa da Giulia Crivelli. E poi i nostri approfondimenti, le buone notizie questa volta nella settimana nella quale naturalmente dominata dall'attentato di Parigi, ma nella quale si è parlato anche del tema italiano, della delega fiscale, della soglia del 3% messa da Renzi sui reati fiscali, insomma del modo in cui l'Italia affronta la questione dell'evasione fiscale. Vi racconteremo un Si può fare in forma di domanda, questa volta viene da Oristano, città nella quale l'amministrazione comunale ha pensato di pubblicare online i nomi di tutti i morosi, quelli che non pagano le multe, le tasse arretrate all'amministrazione comunale, un modo per mettere alla berlina gli evasori. Non si può fare in forma interrogativa perché questa storia si è fermata a metà, naturalmente perché c'è stata un'opposizione per questioni di privacy, quindi evasione fiscale. Oggi questo è il tema da cui partiremo per affrontare il mondo delle buone notizie. Adesso però andiamo sui giornali di oggi. Prima fatemi ricordare i contatti se volete interagire fin da subito con noi in tempo reale. Ci trovate su Facebook, la pagina Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter del programma è @ Si può fare 24. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, eccoci qua, cominciamo con il Corriere della Sera, anche oggi, in marcia contro il terrore, questo è il titolo. Sapete, ci siamo appena collegati anche con il nostro Sergio Nava, il giornale radio. Sergio Nava inviato a Parigi, oggi c'è la grande manifestazione, attesi molti capi di governo, capi di Stato, quindi sarà una grande prova di unità, attesa anche soprattutto la comunità musulmana di Parigi e non solo a questa manifestazione. Fra i vari spunti sui giornali di oggi vi segnalo una serie di interviste, di punti di vista, perché di ricostruzione e di cronaca ne abbiamo vista. Naturalmente ci sono dei punti ancora in questione, come la probabile fuga di una delle terroriste, la terrorista, la compagna di uno dei terroristi in Siria, quello che sembra. Però insomma, punti di vista oggi sui giornali. Ma intanto questa notizia, la riporta Marco Marisio sul Corriere: non pericolosi i controlli sui killer interrotti 6 mesi fa. Diventa difficile, scrive il Corriere, capire perché la sorveglianza dei due fratelli Sherif e Said Kouachi, autori del massacro di Charlie Hebdo, sia stata del tutto abbandonata da luglio 2014. C'erano altre priorità, e la risposta data ieri dal ministro dell'Interno, che ha detto non erano più pericolosi. Poi un commento, il primo, quello di Ernesto Galli della Loggia, assassini, il coraggio di dirlo, fa un paragone, vediamo, con quanto avvenuto negli anni 70, all'epoca delle Brigate Rosse, per capire da dove veniva l'estremismo violento di quegli anni e da dove può venire quello di oggi. All'Islam non servono, scrive Della Loggia, ritrattazioni, dissociazioni, condanne. Diciamo la verità, chiedere ai suoi esponenti qualcuna di queste cose ha sempre un sapore sgradevolmente intimidatorio. Oggi all'Islam serve altro, serve una rossana rossanda islamica. Qualcuno ricorda, era il lontano 28 marzo del 78 in pieno sequestro Moro. Tutto lo schieramento politico democratico di sinistra, come allora si diceva, cioè dalla DC al PC, si interrogava sull'accaduto. Si chiedeva quale misterioso progetto ideologico e quali reconditi burattinai stessero dietro alle lucubrazioni delle Brigate Rosse. In tutto questo Rossana Rossanda ebbe il coraggio di dire ciò che era sotto gli occhi di tutti e che fino ad allora nessuno a sinistra aveva osato quasi neppure pensare, cioè che per capire il linguaggio e l'ideologia delle BR non c'era da andare lontano. L'una e l'altra erano infatti quelli del comunismo degli anni 50, ben scolpiti nella memoria di tutti. Le BR, insomma, non venivano dal nulla, non erano schegge impazzite, erano all'opposto una pagina dell'album di famiglia della sinistra italiana. Oggi l'Islam ha forse bisogno di uno scandalo analogo, di qualcuno nelle sue fila che abbia la lucidità intellettuale e il coraggio di dire che se nel mondo si aggirano gli assassini, degli assassini, i quali sgozzano, violentano donne, brutalizzano bambini, predicano la guerra santa, fanno questo invocando Allah e il suo profeta, sempre annunciando di compiere le loro gesta in nome e per la maggior gloria dell'Islam, ebbene se ciò accade non può essere una casualità, non può essere attribuita a una sorta di follia collettiva. Il mondo non è pazzo, scrive Galli della Loggia, qualche ragione ci deve essere. Che cosa c'è dietro? Non mi azzardo a dirlo, diciamo la fine del commento di Galli della Loggia, che invita però chi sta dentro il mondo, diciamo, della cultura islamica a fare questo passo, ammesso che sia corretta la sua analisi. Sempre sul Corriere, però, diciamo, due punti di vista. Intanto quello di un altro musulmano, Lassana Batli, che ha salvato 6 ostaggi. Musulmano originario del Mali, è lui l'angelo custode di una 15 di ebrei francesi, tra cui un bambino, che sarebbero rimasti pure loro in balia di Amedi Koulibaly per 4 ore nel supermercato Kosher alle Porte de Vincennes venerdì, se lui, Lassana, non li avesse nascosti nella cella frigorifera del negozio. Insomma, la storia l'avete sentita: 24 anni, originario del Mali, impiegato in questo supermercato, gli ha guidato queste persone dentro le celle frigorifere, ha spento le luci, ha spento il motore delle celle frigorifere per non farli congelare, poi è scappato e è andato a chiedere aiuto. Dall'altra parte invece c'è la telefonata fatta da RTL a Koulibaly stesso, dentro il supermercato, gli rimane la linea attaccata e lui parla e spiega le ragioni del terrore ai terrorizzati ostaggi e dice cose che anche questo, in questo caso forse qualcuno di voi avrà già sentito, ma può essere utile ripeterle ogni volta. Loro, dice il terrorista, cercano di farvi credere che i musulmani sono terroristi. Io sono nato in Francia, se non fossero stati attaccati altrove io non sarei arrivato a questo punto. E poi ancora frasi abbastanza deliranti, ma che contengono spezzoni, diciamo, di per capire quello che è accaduto. Io dico che se tutte le persone si unissero insieme come hanno fatto per Charlie Hebdo per eleggere il loro presidente, allora fate la stessa cosa, unitevi, fate delle manifestazioni e dite lasciate i musulmani tranquilli e noi lasceremo tranquilli voi. Perché non lo fate? O ancora punti di vista come quello dell'imam di Parigi, che è intervistato da Repubblica. Dice alla domanda qual è il messaggio oggi per i suoi fedeli, quello di partecipare in massa alla manifestazione repubblicana, di uscire di casa per onorare le vittime, di mostrare da cittadini francesi che si è pronti a combattere l'integralismo che sporca l'Islam. E poi ancora altre affermazioni, fino al punto: è vero che aprirete il corteo della manifestazione di Parigi? Sì, vorremmo essere i primi, è nell'interesse di questa marcia storica, noi imam, uomini di pace, urleremo che siamo noi stessi vittime dell'islamismo. E qualche cosa si comincia ad aprire, qualche squarcio. Poi c'è l'intervista al ministro degli esteri Gentiloni, ministro italiano, che annuncia, insomma, una svolta un po', almeno a parole, della politica estera italiana, più aggressiva, perché dice la nuova minaccia nasce nel califfato, anche il nostro paese è pronto a combattere. Nell'area del Medio Oriente per la prima volta si è insediato un gruppo terroristico che non ha precedenti in quanto a capacità militare, economica, organizzativa e direi soprattutto propagandistica, dice Gentiloni. Quello che è accaduto in Francia è la spia di questa minaccia nuova. Illudersi che questa minaccia possa essere fronteggiata senza intervenire, astenendosi, credendo di poterci chiudere alle nostre frontiere, è un'idea pericolosa. Noi dobbiamo colpire, sradicare, estirpare la minaccia nel luogo in cui è più radicata, cioè dove c'è l'ISIS. In luglio-agosto la minaccia era incomparabilmente maggiore di quanto non lo sia adesso in Iraq. Cioè Gentiloni rivendica i risultati che sarebbero già stati ottenuti dall'inizio di questa missione, di questa coalizione internazionale contro l'ISIS. Però poi va avanti Gentiloni, attenzione, perché dice questa minaccia va estirpata anche fronteggiando anche le altre minacce che provengono da Al-Qaeda, da Boko Haram e dagli altri focolai del terrorismo. Cioè ci si sposta in Africa, ci si sposta in altri scenari del terrore, secondo il ministro Gentiloni. È arrivato il momento di diventare, di prevenire anziché, diciamo, di curare i mali dopo che sono state provocate le ferite. C'è anche un colloquio del Papa, un'intervista, credo, proprio sulla Stampa. Non ve la leggo perché è molto lunga, però ci sono, diciamo, degli stralci. Avere cura di chi è povero non è comunismo, è Vangelo. È questo il titolo scelto dalla Stampa. L'intervista non è su quello che è accaduto in Francia, ma è un'intervista sull'atteggiamento della Chiesa nei confronti del mondo, dell'umanità e della povertà. Serve più etica nell'economia, ripete il Papa. Non possiamo più aspettare a risolvere le cause strutturali della povertà. Senza una soluzione ai problemi dei poveri non risolveremo i problemi del mondo. Qua forse c'è una connessione anche con quello di cui si è parlato fino ad ora. Servono programmi e processi orientati, dice il Papa, a una migliore distribuzione delle risorse, alla promozione integrale di chi è escluso. E poi dice: questa attenzione per i poveri è nel Vangelo, nella tradizione della Chiesa, non è un'invenzione del comunismo. Attenzione, dice il Papa, non bisogna ideologizzarla come è successo in passato. È stato San Francesco che ci ha aiutato a scoprire il legame, dice Papa Francesco, appunto, il legame profondo che c'è tra la povertà e il cammino evangelico. E sono parole, insomma, magari non nuovissime, ma abbastanza pesanti. Altri due titoli di due giornali sulla questione Parigi sono questi. Ecco l'italiana pronta a colpirci, scrive il giornale, minaccia islamica, si chiama Maria Giulia Sergio, si è convertita per il Viminale, è diventata la terrorista Fatima. Quindi questo è il tema dei foreign fighters o comunque degli ex combattenti che passati nei scenari di guerra e rientrati in Italia. Questa addirittura è un'italiana convertita. Poi la frase di Berlusconi di ieri: attacco alla nostra civiltà, dobbiamo reagire. Caccia la signora Jihad, scrive ancora il quotidiano nazionale Il Giorno, quindi si occupa della stessa notizia. Voglio però darvi anche questa segnalazione abbastanza importante, secondo me, che c'è in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Chi ieri non l'avesse notato, è importante questo perché anche l'Islam estremista contro i macellai di Parigi. Ora, che si tratti, diciamo, di strategia o di melina, questo è: Hamas e Hezbollah, due tra le più importanti organizzazioni dell'integralismo islamico, hanno condannato ieri l'attentato di Parigi. Vediamo di che dichiarazioni si tratta, e sono queste. I vertici di Hamas, la formazione radicale palestinese, ieri hanno diffuso alle agenzie di stampa internazionali un comunicato che non lascia molto adito a dubbi, scrive il Fatto Quotidiano. Hamas condanna gli attacchi contro Charlie Hebdo e insiste nel sostenere che la differenza di opinione e di pensiero non può giustificare l'omicidio. Certo, non mancano stoccate contro Tel Aviv, cioè Israele. Hamas condanna i tentativi disperati di Netanyahu di creare una connessione tra il nostro movimento, la resistenza del popolo palestinese da un lato, e il terrorismo globale dall'altro. Altra condanna è quella di Hezbollah, il partito di Dio libanese, che nel simbolo ha una mano che stringe il Kalashnikov, quindi non stiamo parlando di fraticelli, che parla con la voce del suo leader Hassan Nasrallah, che dice: quei gruppi estremisti hanno offeso il profeta Maometto più delle vignette pubblicate in Occidente. Cioè, sembra una frase abbastanza inequivocabile. Il comportamento degli estremismi che affermano di seguire l'Islam ha dato una visione distorta della stessa religione, del Corano, della nazione islamica, più di quella fornita dai nemici dell'Islam, che hanno insultato il profeta nei film o hanno disegnato vignette del profeta. Cioè, peggio i terroristi che hanno ucciso a Charlie Hebdo di tutte le minacce messe insieme contro l'Islam. E queste sono le frasi del capo di Hezbollah, un movimento radicale islamico in Libano. Poi ognuno con queste frasi ci faccia quello che crede. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, saremo insieme fino alle 11, finiamo di dare un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi, poi cominceremo i nostri approfondimenti, le nostre buone notizie, apriremo anche il numero verde per sentire i vostri interventi. Stavamo leggendo sul Fatto Quotidiano le prese di posizione dell'Islam estremista. Contro, scrive il Fatto in prima pagina, i macellai di Parigi. E appunto la notizia è questa: dopo le prese di posizione dell'Iran di Hezbollah, ieri Hamas ha condannato il massacro di Charlie Hebdo. La differenza di opinioni non può giustificare l'omicidio, la distanza dai killer continua nelle piazze, sui social network e sui giornali. Se qualcuno appunto chiedeva e chiede all'Islam, addirittura moderato, di prendere le distanze dall'integralismo violento, addirittura qua arrivano prese di distanze da parte di chi in Libano o nelle territori palestinesi, insomma, non è che usi la mano proprio leggera. Ripeto, Hezbollah ha il simbolo del Kalashnikov, ha il Kalashnikov nel suo simbolo, quindi si parla di un movimento armato che lotta contro i nemici del suo popolo e che però in questo caso prende le distanze da un vile attentato, quello che ha colpito dei giornalisti in un paese in pace come la Francia. E queste sono, secondo me, dichiarazioni che hanno una certa rilevanza. Poi che si tratti di strategia di Melina può darsi, però pensate che effetto possono avere nella galassia islamica il fatto di non creare una rete che metta insieme l'ISIS, i terroristi che hanno agito a Parigi, Al-Qaeda, aggiungete quello che volete, e poi anche Hamas, Hezbollah e tutti gli altri movimenti islamici integralisti. Invece no, c'è una frattura tra chi predica a questo punto la violenza armata, come questi terroristi forse isolati o forse collegati all'ISIS, e chi invece pratica forme di violenza in un territorio come il Libano o i territori palestinesi, che però, ripeto, a questo punto prendono le distanze dal terrorismo. Quindi poi vediamo appunto che come si evolve questo dialogo all'interno delle, diciamo, delle frange più integraliste del mondo islamico. Vogliamo leggere un pezzettino anche del commento di Vittorio Feltri sul giornale, il cui titolo abbiamo letto prima. Ecco l'italiana pronta a colpirci, si chiama Maria Giulia Sergio ed è un'italiana convertita all'Islam che per il Viminale è diventata una terrorista. Però il commento di Feltri è questo: un divario destinato a diventare voragine, un commento che ci porta in una direzione diversa rispetto a quello che abbiamo appena detto, perché i fatti tragici di Francia, scrive Feltri, sono l'ennesima conferma che esiste un abisso tra la cultura occidentale e quella di stampo islamico, che è sostanzialmente rimasta al Medioevo e non accenna a evolversi, anzi sta assumendo sempre più i caratteri del fondamentalismo. Anche gli islamici immigrati da decenni si sono guardati dall'integrarsi nella nostra società, scrive Feltri, hanno anzi conservato gelosamente abitudini e costumi atavici della loro terra, trasmettendo ai figli e ai nipoti tradizioni che collidono con le nostre, altrimenti non si giustificherebbe che molti giovani della seconda e terza generazione allevati e cresciuti in Europa siano reclutati da gruppi terroristici animati dal desiderio di combattere contro le nazioni che li accolgono e che hanno concesso loro la cittadinanza con ogni diritto connesso. Torniamo all'intervista a Gentiloni, il ministro degli esteri, visto che abbiamo un pochino più di tempo questa mattina per stare sui giornali, perché, ripeto, segnala un po' una svolta della politica estera italiana, almeno negli annunci, nei propositi. Il ministro degli esteri dice: probabili nuovi attentati, i terroristi hanno messo San Pietro sulla copertina della loro rivista, c'è poco da interpretare e quindi anche il nostro paese è pronto a combattere. Leggiamo questo passaggio che non abbiamo letto prima: la nascita tra Siria e Iraq di un territorio controllato dai terroristi e poi l'utilizzo che l'ISIS ha fatto dei suoi primi successi ci diceva che offese del genere sarebbero state possibili. In Europa saranno ancora probabili, quando si crea un magnete, un incubatore, un moltiplicatore come il Daesh, che è la sigla in arabo dell'ISIS, le conseguenze sono poi prevedibili. In Italia non ci sono allarmi particolari, ma c'è una condizione generale che adesso davvero tutti conosciamo chiaramente. non c'è un allarme particolare, dice Gentiloni, che però due righe dopo invece dà un segnale preoccupante, che è questo: quando la rivista ufficiale dei terroristi mette in copertina l'obelisco di San Pietro con la bandiera nera, non ci sono molte interpretazioni da fare, puntini, puntini, puntini. Questo cosa vuol dire? Che il ministro teme un attacco a San Pietro? A me sembra di sì, da queste frasi, anche se due righe prima Gentiloni dice non ci sono allarmi specifici sull'Italia. A me pare un po' una follia questa cosa qua, perché o dici che c'è un allarme sull'Italia e lo puoi dire, oppure stai zitto, non tiri fuori San Pietro, secondo me. Però la parte più importante dell'intervista è l'altra, quella che abbiamo letto prima, quella nella quale Gentiloni fa capire che questa coalizione internazionale che sta agendo contro l'ISIS in Iraq dovrà estendere le proprie operazioni anche ad altre minacce che provengono da Al-Qaeda e da Boko Haram. A proposito di Boko Haram, dalla prima pagina del Corriere, un'atrocità senza limiti, il kamikaze è una bambina, orrore in Nigeria, scrive Isabella Bossi Federigotti. Infatti questo, nella tormentatissima Nigeria si è fatta saltare nuova efferata prodezza organizzata da Boko Haram, movimento integralista islamico operante in quella zona del mondo, una bambina di non più 10 anni, al mercato della città di Maiduguri, già preso di mira in novembre da due giovani donne kamikaze. Ha compiuto un massacro, la piccola martire, dilaniando a morte 19 persone. E questo è l'orrore senza fine. Adesso, prima di fermarci per il giornale radio, come nello spirito che si può fare, andiamo a cercare una buona notizia che ci porta in tutt'altro mondo, anzi questa volta ci porta addirittura all'estero, però era importante darla, vai! And now, the good news! E allora, per questa volta sconfiniamo per questa buona notizia, viene da New York, una città importante, l'America è un paese sempre più capofila nella green economy, e nel cogliere le nuove tendenze, ma sono tendenze anche e soprattutto, diciamo, di stili di vita più sostenibili, ma che hanno a che vedere anche con la nuova economia, quindi con i possibili posti di lavoro che si stanno creando. New York dice addio ai contenitori di plastica per il cibo. Da luglio ristoranti e fast food non potranno più usare piatti e bicchieri di polistrene perché non è riciclabile e forse danneggia la salute. 800 24 00 24, dopo il giornale radio torniamo più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Ciao a tutti, ben ritrovati. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, cominciate subito a prenotare i vostri interventi. Anche oggi si gioca, anche oggi si commenta. Ci abbiamo anche il concorso, il nostro concorso, giusto? Il personaggio della settimana. Il personaggio della settimana. Biglietti, sì, e signore. Catalogo della prestigiosa mostra di Chagall in palio. A chi indovina l'indizio lo vogliamo dare subito? Creiamo un po' di suspense. Diciamo due cose, poi tra poco l'indizio. Quindi restate, come si dice, collegati, connessi, in maniera da poter giocare tra poco. Allora, intanto tra poco parleremo di un tema, insomma, per la domenica mattina è un po', come dire, cioè, indigesto, cioè non è che uno può iniziare la mattina parlando di evasione fiscale, di tasse, queste robe qua, cioè, sembriamo Oscar Giannino, sì, che giustamente fa delle crociate su questo, però magari in altri orari, momenti più tranquilli della giornata. Anche perché se ne parla già dal lunedì al sabato di solito, esatto, delle tasse. Esatto. Però questa volta è un si può fare interrogativo, cioè il comune di Oristano voleva mettere online i nomi dei morosi, quelli che non pagano le tasse o le multe, insomma, quelli che devono davano dei soldi al comune, cioè a tutti noi, ai contribuenti. Un'iniziativa con un intento, diciamo, comprensibile, lodevole, però è andata incontro, diciamo, ad uno stop per la questione della privacy, perché magari finisce che metti online anche il nome di un disoccupato, un poveraccio che non è riuscito a pagare una multa, sì, e lo metti alla berlina. In generale, anche se non è un disoccupato, bisogna capire, cioè, se la gogna è un buon sistema, diciamo, per far pagare le multe, mi sembra un po'... Insomma, è una cosa che ha fatto discutere, e anche noi questa mattina vogliamo parlarne. Poi un'altra storia invece più virtuosa, di un altro comune italiano dove non si pagano tasse, o meglio, non si pagano tasse sulla casa. 800 24 00 24. Questo tra poco, Carlo. Pensavo che invece parlassimo dell'auto a pedali. Hai visto che è stata inventata l'auto a pedali, che è assolutamente completamente un made in Italy. Quella che abbiamo usato anche noi da bambini al parco giochi. Ma a vedere dalle foto direi che sembra un pochino più spaziale. Prototipo, però, un po' più avanzato. Sì, siccome mi colpevolizzi sempre che io non vengo in bicicletta, perché non tanto perché non sappia pedalare, ma forse perché fa troppo freddo la mattina, quindi ammetto di venire in motorino. Poi non ho la patente, quindi non è che... No, scusami, allora cosa vuol dire? Da aprile in poi verrai... con l'auto pedali. Adesso no. voglio capire questa questione dell'auto pedali. La vera cosa che vorrei capire è se ci vuole la patente, perché io non avendo la... Forse però in effetti la patente ci vuole, perché uno deve andare su strada. Forse sì. Ma è un'auto o una bici? No, è una bici, no, probabilmente la patente non ci vuole, perché anche l'AP 50 non è bisogno, cioè basta il patentino, giusto, del motorino, e io sicuramente non vado più di 50 all'ora pedalando, posso pedalare quanto voglio. Ed è un prototipo italiano questo qua, bello. Completamente made in Italy, realizzato da due tecnici italiani ecosostenibili, Jonathan Scrofani e Marco Ruga di Gallarate. Vedi che noi siamo sempre in prima linea sulle cose, sulle innovazioni, poi magari arriva un americano che ci frega il brevetto. Ora, poi era perfetto, mettevamo la canzone di Frankie High Energy. Pedala, quindi allora, se ne proprio, parleremo la prossima volta. Se proprio vuoi pedalare, senti questa notizia qua. Io sono rimasto colpito. Petizione contro la pista ciclabile sulle mura di Grosseto. Ora, in genere le petizioni si fanno per fare le piste ciclabili, per andare in giro in bicicletta. I ciclisti, che sono una lobby giustamente animata dalle migliori intenzioni, perché pedalare fa bene a tutti e a tutto. E invece questa volta la petizione contro una pista ciclabile. Ma però, come tu che sei toscano, devi spiegarmi che cosa vuol dire. Magari io non le conosco bene le mura di Grosseto. Magari sono pericolosissime, i bambini cascano di sotto. E questo è il punto. Io ti posso dire, intanto a Lucca, che è città che conosco meglio, c'è il percorso sulle mura della città, un'antica città medievale, la base medievale, e le mura sono percorribili, sono bellissime. La a stessa piedi cosa, o in bici sono percorribili? A piedi, ma anche in bicicletta, perché è molto largo. A Grosseto volevano fare la stessa cosa. Io non conosco esattamente le mura di Grosseto, ma il motivo della petizione è questo: che è una, diciamo, è un, non ci sono lampioni. Ci sono un percorso buio, diciamo, zone di degrado, e quindi la gente dice: ma come si fa ad andare in bicicletta se non ci sono? Però io penso che zona il comune di degrado ristrutturerà tutto. No? Dico, tu fai la pista ciclabile, poi non è che sei obbligato ad andarci. Se tu sei un bambino di 9 anni e quella è una brutta zona, a mezzanotte non vai sulla pista ciclabile. No, ma dico, non è che uno non fa la pista perché c'è la zona. E poi forse una volta che ci sono le piste ciclabili, il degrado se ne va. Esatto, perché ci passeranno più persone, esatto, e ci sarà stato comunque un intervento comunale. Io sono rimasto colpito questa petizione contro la pista ciclabile sulle mura di Grosseto. E quindi metteranno una metropolitana sulle mura di Grosseto. O sotto. Io vorrei sapere dagli amici grossetani all'ascolto cosa ne pensano. 800 24 00 24. Se hanno un'opinione su questo, eh? Poi magari leggiamo anche dopo la petizione. Perché... E soprattutto se si potrà andare con la bici a pedali. Con la macchina a pedali, scusami. Adesso sono in fissa con la macchina a pedali. E così sarà fino alla fine della puntata. Sì, inizio a pedalare. Infatti, io sto pedalando. Pedalerò durante tutta la trasmissione per smagrire. Indizio, diamo l'indizio. Personaggio della settimana 800 24 00 24. Caricate il dito per il numero verde. L'indizio lo dai tu? No, dallo tu. Lo è giusto, io. Lo dai il sempre primo tu indizio che sei lo io. Il capo ed è il più largo di tutti degli indizi. Il largo di tutti di oggi è che il nostro personaggio oggi si trova a Parigi. 800 24 00 24. E chi no? Spogliamo tutti i loro nomi. visto il declissi al sole, le persiane ti ascoltano, abbandono da triste storia, ho paura ma e voglio da mangiare, furie piombo, sangue, sangue, erano secoli, secoli, secoli, secoli fa. Forse un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, il ladro, dimmi chi è, fagli il nome, il ladro, dimmi chi è, non so niente, non so dove, non so, dimmi chi è un parassita, il ladro, dimmi com'è. Dimmi il nome, dicono l'Elite FIBA, e quello che sembra aver detto anche il comune di Oristano, dimmi i nomi degli evasori e noi li pubblichiamo online. È un si può fare interrogativo questo di oggi. Noi salutiamo il sindaco di Oristano, Guido Tendas, buongiorno. Sindaco? Sindaco di Oristano non c'è, buongiorno. Dovrebbe essere collegato. No, sto cercando di capire. Il sindaco di Oristano, Guido Tendas, è in linea con Radio 24 o no? Pronto? No, pronto, mi perdoni. Pronto? Eccolo, eccolo, è registrato. No, mi perdoni, ma io non sono il sindaco di Oristano, sono il sindaco di Pontindrea. Ecco, c'è stato un errore della redazione. Cosa è successo? Abbiamo sbagliato il numero di telefono. Perché era comunque abbiamo giustamente in linea, diceva finché non chiamano me, io non rispondo. Sindaco, giusto? Mi scusi. Poi ci è venuto il dubbio. Sì. Allora, è successo un qui pro quo. Abbiamo invertito o i numeri di telefono o i nomi, o tutti e due. No, tutti e due no. Perché adesso dobbiamo invertire i sindaci. Quindi lei è diventato in questo istante il nuovo sindaco di Oristano. Esatto. Allora, improvvisi qualcosa sulla Sardegna e su Oristano. Vediamo se è preparato. No, allora, non sono molto preparato. È una bellissima regione. Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontivrea, perché la notizia successiva di cui avremmo parlato è questa. E allora la spieghiamo. Ma tra l'altro è perfetto, posso dire, perché stiamo parlando di invece di comuni che si devono fondere. Sì. Quindi adesso fonderemo ovviamente questo comune con quello di Oristano. Oristano. Prego. Allora, sindaco, la notizia di cui vogliamo parlare con lei è questa. Riguarda sempre l'atteggiamento di un comune nei confronti delle tasse e quindi anche del tema dell'evasione, eccetera, eccetera. La sua è una storia di un comune virtuoso, perché lei è riuscito a Pontivrea a intanto a non far pagare le tasse sulla casa, è così? Sulla prima casa, sì. Non abbiamo mai applicato né l'IMU, né la TASI, né la TARES. Siamo rimasti in regime TARSU. Sulla prima casa. Ecco, quindi diciamo rispetto ad altre città, quanto mediamente lei è riuscita a far risparmiare i suoi concittadini? Si può fare un calcolo? Io non l'ho mai fatto, ma direi che sentendo gli altri comuni siamo all'anno sui 600 euro, direi che ci stiamo, tra la TARES e l'IMU sulla prima casa o la TASI oggi, ecco. Ma insomma non è una cifra da poco. No. Com'è riuscito lei in questa impresa? Cioè come fa un comune, diciamo, a fare queste partite di giro o quantomeno, diciamo, a essere così virtuoso da non aver bisogno poi di questi introiti fiscali? Allora, intanto vorrei fare una piccola premessa, perché sulla stampa in questi giorni è uscito che io sono il sindaco antitasse. Non è vero. Io sono un sindaco che ritiene che le tasse vadano pagate perché i servizi si mantengono con quelli, ma non devono essere vessatorie per i cittadini. E mi sembra anche molto saggia come posizione. Voglio dire. No, ma nel senso che lo Stato dovrebbe fare prima dei tagli che indignano l'opinione pubblica e poi eventualmente in un momento di crisi come questo ci fosse bisogno di chiedere ancora un sacrificio ai cittadini, allora si potrebbe. Ma onestamente io di fare il braccio armato del governo per poi vedere cose tipo Roma Capitale mi mette veramente in difficoltà. Comprensibile. Questo, sì. Detto questo, come abbiamo fatto? Noi sull'IMU e sulla TASI ci siamo proprio rifiutati. Abbiamo detto salti pure il banco, ma noi non l'applichiamo, eventualmente andremo a casa. Grazie a Dio abbiamo amministrato in un certo modo e non siamo saltati, anzi, per essere un comune comunque di dimensioni non grandissime abbiamo portato 45.000 euro davanti all'amministrazione. Quindi quanti abitanti fa Pontivrea, sindaco? Diciamo che siamo sui 1.500 abitanti. Certamente parliamo di un piccolo comune, però prego. Beh, però un ottimo risparmio. Comune, le regole comunque valgono nel piccolo come nel grande. Nel certo. Non, Poi abbiamo forzato la raccolta differenziata porta a porta, l'abbiamo portata dal 20% al 64% in un anno con un risparmio di 30.000 euro e questo ci ha permesso di non applicare la TARES, che era una tassa che avrebbe distrutto completamente non tanto i cittadini ma il nostro tessuto. Ecco, questo economico. Mi sembra un punto già interessante, perché lei ha detto le regole si possono applicare nel piccolo come nel grande, cioè come lei passando dal 20 al 64% ha potuto risparmiare in un piccolo comune 30.000 euro, vuol dire che se Roma facesse la stessa cosa potrebbe risparmiare svariati milioni o milioni di euro. Ma come funziona questo meccanismo? Ce lo può spiegare? Noi non l'abbiamo, io sono andato con il cappello in mano, diciamo così, sì, nel comune di Capannori a capire come potevano essere, certo, loro così avanti con la raccolta differenziata. E loro con un comune da 40.000 li conosciamo bene perché abbiamo ospitato più volte, esatto, Rossano Ercolini e quella storia l'abbiamo raccontata, esatto. E quindi niente, se loro sono riusciti a farlo in un comune da 45.000 abitanti, non vedevamo perché noi non avremmo potuto farlo in un comune da 1.500 abitanti. Siamo andati giù, abbiamo visto come facevano, l'abbiamo riportato a casa nostra. A volte copiare, se serve a migliorare i servizi, giusto, per i cittadini, mi sembra che... Ma il meccanismo proprio economico, perché questo a me personalmente mi sembra meccanismo, interessante. Cioè, lei porta la differenziata al 64% e quindi spende meno, in cosa spende meno? Smaltimento, suppongo. Meno smaltimento, perché intanto lei tenga presente che noi tutte le case con giardino abbiamo messo obbligatoria la compostiera, quindi meno peso nei sacchetti dell'indifferenziata. E comunque abbiamo poi attuato una raccolta porta a porta puntuale sulla carta, la plastica, il vetro, con sacchetti col codice a barre, quindi ogni cittadino è responsabile di quello che mette nel suo sacchetto. E il singolo è obbligato ad avere la compostiera se ha il giardino, è così? È il singolo, certo, giardino o qualsiasi metratura di terreno che gli permetta di ospitarla. Ah. Quindi non deve essere un grande giardino, ma anche un normalissimo giardino condominiale. E la reazione è stata positiva dal punto di vista dei cittadini? Le dico la verità, l'anno scorso quando siamo partiti c'è stato uno sconvolgimento di modo di vivere dei cittadini, no? Perché senza più cassonetti filostrada, che assolutamente immagino, abbiamo tolti tutti, e subito siamo un pochettino di malumore, di malessere c'era. Poi visto che grazie a quella iniziativa comunque... si trovavano a non pagare alcune tasse, hanno cambiato opinione. Esatto. Era proprio per questo che glielo chiedevo, perché è molto importante questo, che in realtà è giusto premiarli i cittadini nel momento, certo, che seguono, certo, una direttiva ecologica. Ma le dirò di più, nel nostro piccolo grazie a questo risparmio siamo riusciti anche a dare non le faccio il nome della ditta, ma uno strumento di telesoccorso gratuito a carico del comune agli anziani o alle persone che comunque vivono da sole e hanno problemi di salute, visto, cioè, che noi comunque viviamo lontano, sì, dai centri di primo soccorso. Certo. Direi che abbiamo ottenuto un buon risultato. Senta, abbiamo fatto sentire un veniamo però, sindaco Camiciottoli, alle note dolenti, perché ci sono anche queste. Allora, la cronaca locale scrive questo: il sindaco, bravo, che fa tutto quello che lei ci ha raccontato, però siccome si rifiuta di fondere il suo comune con altri comuni, come in ossequio, diciamo, alle previsioni della legge del Rio, che dà incentivi ai comuni che si fondono, adesso verrà commissariato. Cioè, è questo che succederà? Lei verrà, allora, commissariato? Mettiamo un punto fermo. Io, sì, non ho mai parlato di che il decreto del Rio a oggi dice che bisogna fondere i comuni. Il decreto del Rio parla di unioni di comuni o convenzioni. Cosa vuol dire questo? Andare a creare nuove sovrastrutture, passare a cedere i nostri servizi a queste sovrastrutture, quindi le funzioni obbligatorie che i comuni dovrebbero svolgere in forma associata, e questo porterebbe senz'altro un aggravio di costi e non garantirebbe i servizi ai cittadini. Allora noi ci siamo detti, non solo perché dobbiamo dare dei servizi a un'entità nuova per la quale, ma non lo dice il sindaco di Pontimbrea, lo dice la Corte dei Conti in audizione al Senato, lo dice lo studio del ministro Zarda, lo dice la stessa commissione di studi del Senato, che non ci sono prevedibili risparmi. Cioè, scusi, tutti questi dicono che di fronte alla, esatto, fusione dei comuni non, esatto, non sono prevedibili dei risparmi. Non si possono garantire i risparmi. Loro non dicono che non ci saranno. Non si possono garantire. Allora io mi domando. No, non si possono garantire, però se facendolo bene, e lei tra l'altro è un sindaco bravo, noi poi le faremo una proposta al termine dell'intervista. Le dico il perché no. Perché in Emilia Romagna la questione dell'unione dei comuni parte da molto lontano, sì, da una quindicina d'anni fa, in forma volontaria. Poi è arrivato il Del Rio, il ministro Del Rio l'ha portato in forma obbligatoria. I comuni dell'Emilia Romagna, dalla quale il ministro Del Rio viene, 10 anni fa partirono con le unioni dei comuni, e c'è uno studio dove si dice che gli stessi comuni che oggi sono ancora in unione, senza il contributo dello Stato o delle regioni, non starebbero in piedi. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, si crea un cortocircuito, perché se dobbiamo fare queste unioni per creare dei risparmi, bisognerebbe staccarsi dalla, mi lasci passare il termine, dalla mammella dello Stato e camminare con le proprie gambe. Giusto, questo è il suo punto di vista, però mi faccia dire qual è la nostra proposta a questo punto, Sindaco. Era questa, cioè, perché lei non favorisce questa fusione con i piccoli comuni che le stanno a fianco, e poi si candida lei a diventare sindaco del nuovo comune allargato, estendendo a più cittadini diciamo le cose positive che è riuscito a fare a Ponte Imbrea. Questa sarebbe una bella scommessa. Io spiego subito il perché. Perché dal mio punto di vista non ci saranno risparmi, dal mio punto di vista il legislatore non conosce il territorio nazionale, perché andare a fare delle unioni dei comuni nei territori, ad esempio, dove io amministro, è quasi impossibile per la distanza tra i comuni e per la mancanza di servizi. Lei tenga presente che, ad esempio, noi abbiamo un autobus alle 7 e uno alle 3 del pomeriggio, quindi io non mi vedo le persone che possono andarsi a prendere i servizi da questo nuovo ente abitando magari a 20 km di distanza. Detto questo, c'è un principio fondamentale, che il decreto Del Rio è incostituzionale, tant'è vero che la nostra azione di non aderire, di non fare queste unioni, è proprio dettato che noi aspettiamo il commissariamento, e le dirò di più, lo aspettiamo a braccia aperte, perché se è vero come è vero che la Costituzione è il libro su cui noi giuriamo, l'articolo 5, dove i padri fondatori dissero che sono i primi 12 articoli inemendabili, probabilmente sapevano già che arrivava il ministro Del Rio, l'articolo 5 è chiaro, il più ampio decentramento agli enti locali. Quindi invece qua il decreto Del Rio, cioè, fa l'opposto. Fa l'opposto, però parliamo, Sindaco, l'abbiamo detto mille volte, parliamo di piccoli comuni con strutture, con giunte, con consiglieri, con sedi, con direttori generali, comuni di 1000 abitanti, mettere insieme, anche se sono a 20 km di distanza, mi permetta di chiarire una cosa, però. Sì. No, non è positivo, e le spiego il perché. Sì. No, ma ce l'ha già spiegato, non era in realtà perché? Questo il no, motivo dell'intervista. Costano. Il problema è che non costano, cioè qua si vuol far passare il risparmio. Non facciamo l'errore che fece il presidente Monti quando andò in Europa e disse taglierò 30.000 poltrone della politica e tolse 2 assessori a noi, che se lei sa, se non lo sa, glielo dico io quanto costano gli assessori in un comune come il mio, zero, e a volontariato. Non prendono un centesimo. Ha tagliato 30.000 poltrone della politica, ha tolto 2 assessori ai piccoli comuni. Il problema è che il presidente dell'ANCI, che è anche il sindaco di Torino, nonché credo renziano di ferro, ha già detto che i comuni da 8.000 devono diventare 2.000. Questo vuol dire arrivare alle fusioni dei comuni, e ci arriviamo. Arrivare alle fusioni dei comuni vuol dire che io, con la mia lista civica e con il mio buon modo di lavorare, non mi candido più, perché arriveranno i partiti, perché loro parlano di 15.000 abitanti. Cioè, lei dice, questa è un'operazione per cui le liste civiche non vinceranno più, perché su 15.000 abitanti è più facile che abbiano la media. Non è vero, Sindaco, perché ci sono liste civiche anche in grandi comuni, questo succede. Lei però mi porti il nome di un sindaco di una lista civica di un grande comune. Beh, Parma forse, no? No, Parma è un movimento, non è una lista civica. Parma hanno creato un movimento, i 5 Stelle hanno creato un movimento che è a livello nazionale. Io parlo di lista civica del territorio. Certo. No, comunque io glielo ribadisco il nostro invito, poi lei faccia come gli pare. Noi siamo intanto le facciamo i complimenti per come ha amministrato dal nostro punto di vista il comune di Ponte Imbrea. La nostra proposta è questa: faccia la fusione, si candidi, faccia il sindaco ed estenda a più abitanti, a più persone, a più cittadini le cose buone che è riuscito a fare in un comune di 1000 abitanti. Riuscisse a farlo in un comune di 5000 abitanti, ci sarebbero 4000 persone in più che possono beneficiarne. Questo è il nostro invito, il nostro augurio. Poi naturalmente lei farà come crede. Grazie, Sindaco, buona domenica. Io la ringrazio. Arrivederci. Grazie mille, buona Caluto. Domenica. Buongiorno. I complimenti glieli rinnoviamo, perché ci ha raccontato un modo lineare di amministrare. Non è peregrino nemmeno il tema della lista civica, no, però facciamo un passo in avanti, non limitiamo al piccolo. Io non paese. Avevo capito questo fatto che in realtà quindi c'è un obbligo di fonderli questi comuni. Siccome l'altra volta avevamo dato la bellissima notizia di comuni che si erano fusi, in realtà non ci è sono che incentivi, hanno... non obblighi, ci sono incentivi. No, mi sembra un obbligo, perché se vengono commissariati a questo punto no, non ma è che hai è sentito un incentivo. Cosa ha detto il sindaco? Ha detto: io non ho mai detto che la legge Del Rio obbliga, la legge Del Rio incentiva, e quindi chi non lo fa perde l'incentivo. Questo è il tema. È una cosa anche complicata, probabilmente, come l'interpretazione di ogni decreto, ma insomma. Di nuovo complimenti al sindaco Camiciottoli. Io non so adesso se riusciremo poi a parlare anche con Oristano, lo scopriremo tra poco. Adesso pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ti cominci a fare una domanda sugli uffici che si fa la onda. Se ti vuoi trovare un lavoro, da chi che vuoi paga il tesoro. L'ho domandata per tutto, come le spate che sei so brutto. Prima di tutto con dei pensolici, non possiamo pagarti, paghiamo già l'ici. Vive ma chi è metà, e tasse. Vive ma chi è metà, e tasse. E adesso ci mettiamo in pari con l'intervista annunciata al sindaco di Oristano, Guido Tendas, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, è lei? È il sindaco giusto? No, glielo diciamo perché lei magari non lo sa, era tranquillamente a casa sua, ma noi avevamo invertito il numero di telefono e quindi l'avevamo evocata 20 minuti fa, ma stavamo parlando con un altro sindaco e quindi c'è stato un momento così. Vabbè. Allora, veniamo a noi. Sì. L'iniziativa del comune di Oristano per mettere un po' una toppa a questa falla dei comuni che non riescono a incassare i propri crediti, multe, tasse locali, a volte anche affitti di immobili, mettere i nomi degli evasori, si possono chiamare così, online alla berlina. Un'iniziativa che però non è andata a buon fine. Ci racconta come, quali erano le intenzioni, a che punto siete, come sta andando? Ma, gli elenchi sono stati pubblicati, l'ultimo in particolare, quello sulla Tarso di una settimana fa, è stato effettivamente un errore materiale di chi ha digitato l'elenco. I dirigenti, quando compilano gli elenchi di evasori o presunti tali, perché c'è anche una fase di accertamento prima di dichiarare che un cittadino è evasore, devono obbligatoriamente per legge pubblicare per 15 giorni le loro determinazioni all'albo, e questo albo, quando era cartaceo, conteneva gli elenchi proprio materiali di cittadini che venivano chiamati in causa dal comune. Da quando esiste obbligatoriamente l'albo pretori online, l'indicazione della parte politica, cioè mia, è stata quella, per un problema di opportunità, non perché la legge lo vieti in maniera esplicita, di occultare o di occultare gli elenchi. Quindi non c'è stato un intervento del garante della privacy su questo? No, allora il garante della privacy ci ha richiesto spiegazioni un mese fa per un elenco di multe per infrazione al codice della strada riferite al trimestre, l'ultimo trimestre del 2012, quindi ottobre-dicembre 2012, sì. E questo elenco è stato effettivamente pubblicato dal dirigente, dal comandante del... Ma quello che non ho capito è se era una svista la pubblicazione di questo elenco o se era un atto voluto. No, che quell'elenco sembrava un fatto normale sulla base del fatto che nel vecchio albo pretori online gli elenchi venivano sistematicamente pubblicati, per cui uno se aveva interesse andava in comune, controllava il cartaceo e trovava che era tutto esposto a disposizione. Adesso quello è stato una cosa ritenuta normale dal comandante, poi dopo diciamo le proteste che ci sono state, il comandante dopo un po' di tempo ha ritirato la delibera. Nel frattempo abbiamo ricevuto la lettera del garante della privacy, stiamo predisponendo le nostre controdeduzioni. Non è detto che il garante ci dica avete fatto male, perché purtroppo queste è materia da avvocati, c'è chi dice ma mi scusi, voi che cosa, sono lo stupido dei due, mi scusi, io non ho capito, è stato un piano, nel senso che lei un giorno si sveglia e decide pubblichiamo questi nomi di modo che siano spinti a saldare i loro conto, poi li chiamerei morosi più che evasori, ma comunque insomma. Allora, chiariamo questo aspetto. Il comune oggi per legge funziona su due livelli di responsabilità, c'è il livello della responsabilità, diciamo, politica, che è del sindaco e della giunta, e il livello della gestione delle questioni, che è in capo esclusivamente ai dirigenti. Io non posso dire al dirigente pubblica o non pubblica. noi abbiamo fatto. Ma scusi, ma non è un atto politico pubblicare i nomi dei morosi? Io credo di sì, questo non è un atto politico, no, no, scegliere di farlo. Non abbiamo, no, no, noi non abbiamo, anche perché non avremmo potuto farlo se non adottando una delibera che poteva essere comunque contestata anche dagli uffici, perché non esiste una norma precisa. Io affermo questo. Per motivi di opportunità ho dato questa indicazione verbale ai dirigenti di non pubblicare, ma per un problema di opportunità, perché ci sono di mezzo famiglie, ragazzi che vanno a scuola, che possono essere presi in giro perché magari il genitore non paga una multa o non paga, appunto, non paga la tassa. E quindi perché avete detto? Esclusivamente di opportunità, ma non perché la legge non lo vieti. A Oristano c'è una grandissima discussione dove io ricevo continuamente, nel senso che quotidianamente ci sono cittadini che si lamentano per essere stati messi in prima pagina, diciamo così, e altri cittadini che dicono finalmente oggi so per chi sto pagando in più. Esatto, ma infatti la domanda che io le vorrei fare, sindaco, a questo punto è questa: al di là di, diciamo, di come è andata poi la vicenda nello specifico, sì, che come ricordava lei è anche a degli aspetti tecnici, ci sono di mezzo anche i legali, per lei questo potrebbe essere uno strumento politico, cioè uno strumento di azione politica, quello di, come dire, mettere alla berlina l'agonia, cioè in qualche modo l'agonia, utilizzare questo strumento per, come le chiedono alcuni cittadini, ce lo sta confermando lei stesso, di così mettere un disincentivo un po' forte al fatto di non pagare una multa quando magari uno se lo può permettere, però non lo fa, dice tanto chi se ne frega, eccetera eccetera. Le posso dire con franchezza questo, che noi stiamo valutando, dobbiamo adesso con l'approvazione del nuovo bilancio rivedere il regolamento che dia delle indicazioni nel rapporto tra l'amministrazione e i suoi cittadini, e se il garante della privacy ci dirà, come per altre situazioni in cui siamo stati chiamati in causa, il garante ci ha detto che avevamo fatto bene, se il garante ci dice che questa cosa si può fare, noi lo inseriremo nel regolamento in maniera tale che i cittadini sappiano, guarda che se tu non paghi, la prossima volta ti ritroverai online sul comune per non aver pagato. Però è una cosa che a questo punto i cittadini conosceranno prima. Credo che sia un problema di rispetto nei confronti delle persone che non possono anche pagare, perché noi abbiamo degli istituti che abbiamo introdotto per la prima volta, come il ravvedimento operoso, la rateizzazione del pagamento delle tasse. E il suo comune si affida ad Equitalia o è uno di quelli che no, ha abbandonato? Noi gestiamo in proprio la riscossione. Ci può dire un'altra cosa? Può dire un'altra cosa? A quanto ammontano, diciamo, il montante di questa elusione, chiamiamola così, di questa morosità? L'ultima, ecco, l'ultima, quella che poi non è finita sui giornali, perché io due giorni dopo che ho saputo che era stata pubblicata, ho chiesto alla stampa, che cortesemente ha raccolto l'invito del sindaco, non ha pubblicato i nomi. Questa era una partita che riguarda di 300.000 euro, dove ci sono delle persone. Cioè, complessivamente 300.000 euro. 300.000 euro, ma riguardante. E per il suo comune sono tanti o sono pochi, sindaco? Rappresentano quasi il 10% delle persone, non sono poche, soprattutto. Ma in che senso il 10% delle persone? Sì, dei contribuenti. Riguarda una casistica. Il 10% di tutti i contributi? Come? Cioè, rappresentano il 10% di tutti i contributi che avete? 300.000 euro? No, dei contributi riguardanti la TARSU, che è una cosa importante, perché la TARSU, che era la vecchia. Cioè, scusi, allora, perché non abbiamo capito. Sulla TARSU, il 10% della TARSU viene elusa, c'è morosità. Quindi, di quel periodo. Ma quindi questi 300.000 euro si riferiscono solo alla TARSU? Esatto, sì, che per noi complessivamente invece la morosità, multe e altre questioni più, diciamo, più estese, in senso più esteso possibile, questa morosità, a quanto ammonta? Lei ce l'ha una cifra per il suo comune? No, in questo momento non ce l'ho, però è importante, non, per due motivi: uno, per l'entità in sé, perché 300.000 euro nel bilancio del comune di Oristano sono una cifra importante, ma lo è soprattutto in un periodo in cui, a partire dal 2012, da quando io sono sindaco, ma non perché sono sindaco io, ma è coinciso, un taglio drastico, continuo da parte del governo per i trasferimenti dello Stato. Va bene, questa è storia, questa è storia che conosciamo. Sindaco, noi dobbiamo fermarci qua. Io la ringrazio, abbiamo capito, insomma, la vicenda. Adesso vedremo se ci saranno delle novità, se prenderete queste misure, insomma, noi saremo qui a fare la cronaca, perché soprattutto è uno strumento nuovo, esatto, diciamo, in un certo punto soprattutto di vista, se i cittadini frontiera decidono di fare questa class action che hanno promesso di fare nei confronti di, del comune che pubblica i nomi. Grazie, buona domenica. Se faranno la class action, pronto? Sì. Ho detto, se attiveranno la class action è nel loro diritto farlo, ma a questo punto faranno una class action anche i cittadini che pagano regolarmente per non essere stati tutelati adeguatamente dal comune nel trovare quelli che invece non pagavano, cioè non credo che sia il modo di risolvere il problema. Grazie, buona domenica. Grazie, buona domenica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24. Insomma, questa è vicenda complessa, questa di Oristano. Ci sono due aspetti della medaglia. Uno è quello che evidenziavi tu, cioè i cittadini che non vogliono essere messi alla berlina e faranno una class action e troveranno forse qualcuno che gli dà ragione. Dall'altra ci sono i cittadini che pagano regolarmente le tasse, tutte fino all'ultima lira, e che invece chiedono proprio, gliel'hanno chiesto al sindaco di Oristano, di fare qualcosa per recuperare chi magari potendoselo permettere però fa il furbo e non le paga le tasse. È una vicenda, sì, sì, complessa. È una vicenda complessa, anche perché mi sembra interessante nel momento in cui si parla di tasse, nel senso che il motivo, diciamo, io sono contrario alla gogna, però il motivo è, se io ho il mio vicino di casa che continua a dire di essere addirittura nulla tenente, nel momento in cui si compra la terza Ferrari forse a me un dubbio mi viene, sì. E questa cosa qua la capisco, però nel momento in cui uno non paga una multa è un po' diverso, nel senso che non paga la multa di 60 euro, allora mette sul giornale che io non ho neanche 60 euro, e i miei figli dicono, ma come, il mio papà non c'ha neanche 60 euro per pagare la multa, credo che sia tutto un altro tipo di meccanismo, questo che volevo capire. Tra l'altro non si è nemmeno capito se il sindaco, non è stato un atto politico come giustamente tu gli hai chiesto di dire adesso facciamo così, ma non si è capito se è stata una svista o se è stato se sono stati i vigili che hanno deciso, perché è così, è norma che il comune renda pubblici i nomi. Emanuele da Savona, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Premesso che non so se Garanti in effetti potrà dare il via libera, diciamo, ad operare, a mettere in linea questi dati. Comunque, già che il Comune di Oristano fa un'istanza al Garante, potrebbe anche chiedere di mettere altri dati in linea, in particolare magari di comunicare quelli che sono stati i premi che hanno preso i dirigenti dei comuni, di mettere il numero delle assenze dei dipendenti, vuoi per malattia o per altro. Non dico gli stipendi, ma mettere i curriculum di quelli che sono i dipendenti, di mettere quelli che sono un po' come l'ha fatto a Gian Antonio Stella, i legami che ci sono di parentela fra i dipendenti pubblici, magari fino al quarto cioè grado. Sta dicendo che questa roba di rendere tutto pubblico, che sia, diciamo, certo, bifronte, non solamente non solo nei confronti dei cittadini, ma anche nei confronti dei dipendenti pubblici. Sì, è giusto che vengano pagate le imposte, è giusto, certo, che chi non paga le imposte venga, in un certo senso, anche è invogliato a pagarle tramite un canale di questo, una soluzione come quella che è stata trovata dalla Comune di Oristano. Ma questo non so se sia giusto, è quello che ci stiamo chiedendo, se sia giusto che additare il nostro vicino. Allora, premesso, se premettiamo che questo è giusto, allora a questo punto permettetemi anche di vedere come vengono spesi i nostri. Sì, sì, Emanuele, è chiaro quello che dice, le due cose devono marciare di pari passo, cioè da un lato pretendere dai cittadini che paghino invogliandoli anche in quel modo lì, dall'altro però vediamo cosa ci viene fatto con i soldi pubblici e quindi pubblicare tutta una serie di cose. Credo che anche questo sia, non dico già previsto, ma insomma se ne è parlato tante volte. Sì, adesso, ma io per non esempio, premetterei Renzi, il fatto Renzi, che è un buon modo, che sia un buon modo quello della gogna, quindi non seguo, diciamo, un ragionamento nel senso che io non premetto quella cosa, non penso che di partenza sia un buon modo, parliamo se è un buon modo, non se che è un buon modo e quindi deve essere un buon modo che si sappia anche chi conosce ogni dipendente pubblico all'interno dell'amministrazione. Ma è quello che il sindaco ha annunciato di voler fare, quindi noi facciamo la cronaca, certo, da questo punto, certo, di vista. Renzi stesso ha annunciato il sito, come si chiama, soldi.pubblici.gov.it, quello che poi l'ha annunciato e poi dopo due minuti dopo gli avevano fregato il dominio. Ah, giusto. Ha dovuto cambiare nome. Amalia da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dire che secondo me il personaggio che oggi è a Parigi è Renzi. Ah, siamo al personaggio della settimana. Il personaggio è Renzi. E qual è la notizia legata a Renzi in questa settimana? È il fatto che sia andato a Parigi oggi per commemorare le vittime del terrorismo islamico. Vabbè, okay. Divertenze, okay. Comunque ce n'è tantissime. Pensavo che avrebbe citato la manina di Renzi quando lui ha ammesso la manina è la mia, quella del decreto cosiddetto salva Berlusconi. Ah no, io ho pensato questo. Comunque Amalia, grazie, ma non era Matteo Renzi, no, il nostro personaggio della settimana. Sarà a Parigi anche lui. Il nostro personaggio si trova oggi a Parigi, questo è il primo indizio che abbiamo voluto dare. D'altronde sono tutti a Parigi, tranne te, Alessio e me, credo che sono tutti a Parigi oggi. Cosa facciamo? Poi lo diamo un altro indizio? Sì, dai, prima di chiudere. Luca da Brescia, in un minuto. Salve, senta, volevo soltanto dirle che il sindaco del comune piccolo aveva ragione nel dire che è un obbligo unirsi, altrimenti non sarebbe anticostituzionale. Lei nel riportarlo l'ha cambiato. Sì. E poi un'altra questione: le cose che si possono pubblicare, lo dico perché sono un dipendente, non sono a scelta o politiche, sono legislativamente previste, come anche sono già tutte pubblicati i redditi di tutti i dirigenti. Se lei va sui siti dei comuni trova i redditi dei dirigenti, quindi quello che è pubblicabile o non pubblicabile non lo sceglie il sindaco, ma è un obbligo di legge. Perfetto, ma chi non paga le multe può essere pubblicato? Scusate, ma questo dibattito lo devo chiudere qua. Basta l'ascoltatore perché dobbiamo dare la linea al giornale radio e dobbiamo dare anche un altro indizio. L'indizio è, Carlo, tocca a te. Il nostro personaggio è musulmano. Si trova a Parigi ed è musulmano. 800 24 00 24, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Io sono pazzo, e voglio essere chi voglio, uscite fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, e la vita voglio vivere almeno un giorno. Ci voglio parlare. Questo è Si può fare, anzi questo è il nostro Si può fare in musica ed è ancora una volta Pino Daniele, Io so pazzo. La canzone è segnalata dal nostro ascoltatore Riccardo Tordoni. Vi ricordiamo che potete segnalarci i vostri Si può fare in musica, che noi stiamo cercando ormai da quasi un anno, scrivendoci sui nostri social network, quindi sulla nostra pagina di Facebook che è Si può fare Radio 24, oppure sull'account di Twitter che è @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio è @AleMaurizzi. Io so pazzo, strepitoso, Pino Daniele. È sempre bello sentire Pino Daniele. Ci voglio parlare. No, Ahmed da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Ahmed? Volevo intervenire sul personaggio. Sì. Personaggio della settimana. Sì. Potrebbe essere forse Zidane. Zidane. Per quale notizia, secondo te, Ahmed? Ah, perché ha fatto un'intervista su Paris Match contro l'estremismo. Estremismo islamista, ha parlato parole forti, ha detto ho preso distanza. Sì, giusto. E secondo me è personaggio positivo, è musulmano. Infatti no, ti facevamo raccontare a te la notizia perché ci tenevamo anche a dare questa notizia che avevamo ovviamente letto anche noi. Purtroppo il personaggio non è lui, però ci tenevamo a sottolineare che anche Zinedine Zidane si era dissociato, diciamo, totalmente da qualunque azione terroristica. Grazie Ahmed, continuiamo a cercarlo questo personaggio della settimana, che ricordiamo che oggi è a Parigi ed è musulmano. Andiamo con Cesin, che chiama dalla provincia di Pordenone. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Altrettanto. Volevo dare la risposta al quiz. Sì, prego. Penso che sia Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese. Che è a Parigi anche lui. Sì, è musulmano e dovrebbe, quanto ho sentito nei vostri radiogiornali, diciamo che dovrebbe marciare insieme al presidente dell'Israele, Rivlin. Netanyahu, sì. Netanyahu è il primo ministro, comunque... Sì, no, certo, sì. No, Cesin, non è Abu Mazen. Stavi cercando un giro di parole? Sì, no, Personaggio è il personaggio, sarà a Parigi, siamo contenti che sfili, ma non è quello che abbiamo scelto. Ovviamente di gente a Parigi ce n'è molta oggi, anche di persone musulmane, ed è per questo che abbiamo fatto questa scelta, anche così per parlare un po' di quello. Fra l'altro tra poco ci colleghiamo anche con Parigi, con Sergio Nava. Grazie Cesin. Facciamo Davide dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Sì, pronto. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire in merito a quell'intervento radiofonico di prima rispetto alla gogna mediatica, no? Sì. E già ora, se uno accede ai siti di tutte le amministrazioni pubbliche, c'è un link che si chiama proprio Amministrazione Trasparente. Sì. E ci sono tutti i dati che quel signore chiedeva venissero messi in online. Ma sui dipendenti ci sono i dati sui contribuenti? Sui dipendenti, perfetto. Sui dirigenti e su tutti i responsabili, non solo, ma ci sono molti più dati. Ci sono 231 tipologie diverse di dati che la legge impone a tutte le amministrazioni di dover... Però bisognerà anche vedere se le amministrazioni poi realizzano veramente questa trasparenza, perché guardi, quello che ne so io non siamo ancora proprio, diciamo, al 100%. Allora, è ovvio, sono 8.000 comuni in Italia, però sì. I grandi comuni, non solo, tutte le partecipate... Ma lei, scusi, lavora in un comune, per esempio? Diciamo che lavoro nell'ambito, sì, del pubblico impiego, però non è quello, sì, non voglio... Al ministero, lavoro al ministero, no? No. Però è un consulente, ci dica qualcosa di più. Siamo curiosi. L'importante è che voi sappiate come giornalisti, sì, che come cittadini, che chiunque può andare e visitare il sito, aprire, ma non solo, ma c'è un ingresso molto importante dal punto di vista giuridico, e cioè un istituto giuridico che si chiama proprio un accesso civico, e cioè chiunque può accedere. Però per quello che ne so io si può accedere, ma non sempre ci sono le informazioni che si cercano, non tutti i comuni. Cioè che tu accedi e poi c'è scritto sito in costruzione. Voi avete la facoltà di mandare una mail certificata al comune e non solo all'ANAC, all'ente nazionale di controllo, e questi sono obbligati poi a indicare all'ente, comune o partecipata. Va bene, chiaro Davide, lei non ci vuole svelare la sua vera identità. Comunque c'è non solo questo, ma l'ANAC ha già fatto la gogna mediatica, c'è una parte del sito dell'ANAC dove... Che cos'è l'ANAC, mi scusi, ce lo ricordi? L'ente nazionale anticorruzione, no? Cioè dove è comando Cantone, c'è una parte del sito dell'ANAC dove tutti i consiglieri comunali o provinciali o regionali che non hanno messo fuori i dati loro, che sono dati patrimoniali, sono messi alla gogna, sono già in gogna questa cosa. Quindi, in modo anche esagerato, se vogliamo, siamo arrivati in ritardo a questa questione. Però è il cittadino che deve controllare, siete anche voi giornalisti che dovete impegnarvi su questa cosa, perché ovviamente... c'è tutto fuori. Va bene, grazie Davide. Era giusto dirlo. Noi stessi ce ne siamo occupati tempo fa, quando abbiamo ospitato quelli di Transparency, che fanno proprio questo lavoro qua. Segnalano in quei comuni dove non si è fatta l'informativa giusta, corretta, nel modo giusto, eccetera, eccetera, e aiutano i cittadini, anche con assistenza legale, a farla questa richiesta. È lunga la strada, Davide. Non è che sembra che abbiamo già risolto poi tutto. Poi noi, quando parlavamo di gogna mediatica, parlavamo della questione dei contribuenti, non della questione dei dipendenti però poi pubblici. Era nata la questione che i comuni, se vogliono fare la gogna mediatica per i morosi, devono quantomeno pubblicare come spendono i soldi. È molto bello che tu gli chiedevi lei dove lavora, e lui, nonostante stesse parlando del fatto che tutti i dipendenti pubblici hanno il nome, il cognome, tutto quello che hanno fatto, lui, nonostante ha detto di essere un dipendente pubblico, però dovremmo andare a scoprire. Avrà tutti avuto Davide le sue buone ragioni. Teresa da Milano, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo dare la risposta per il gioco. Sì. Prego, siamo tutti orecchi. Grazie, siete gentilissimi e vi seguo sempre. Grazie mille. Sì, il capo di Stato Netanyahu. Netanyahu, che è a Parigi, che dovrebbe essere a Parigi oggi. Ma con la... a Parigi per manifestare, perché giustamente. Però il secondo indizio, Teresa, è che è musulmano, è il nostro personaggio della settimana. Non so se Netanyahu ci riesce. No, infatti. Non era lui ovviamente. Grazie, ah, Teresa. Però grazie per aver chiamato. C'è rimasta male Teresa, perché ha sentito il primo indizio, non ha sentito l'altro. Però a Parigi oggi c'è tanta gente, c'è anche il nostro Sergio Nava, figurati, tra poco lo sentiamo. Chiudiamo questa cosa con un altro ascoltatore, questo non parentesi, come si dice? Questa giro di ascoltatori. Ermanno dalla provincia di Modena. Ermanno dalla provincia di Modena, esattamente a Carpi. Ah, però. Dunque, sì, capitale del tessile abbigliamento, così ho fatto un po' di pubblicità. Proloco, momento proloco, vai. Sì. Molto bene. Allora, il personaggio della settimana per me sarebbe Hamas. Hamas. Perché? Perché l'ho ascoltato stamattina nei vostri giornali radio e hanno fatto una piccola carrellata di personaggi famosi, fra i quali anche quelli musulmani. No, ci chiedevamo qual era la notizia legata ad Hamas in un momento in cui diciamo. In realtà una notizia l'ho letta io nella segna stampa, non so se si riferiva a questo. Hamas che si è dissociato insieme a Hezbollah, che ha condannato l'attentato degli integralisti islamici a Charlie Hebdo. Questa era la notizia. Però non era Hamas il nostro personaggio. Grazie comunque Ermanno, grazie. Grazie. Da Carpi, capitale del tessile. Giusto, detto? Abbigliamento, ma tessile, anche di altre cose, Carpi, secondo me, cioè terra di tante cose. Lambrusco, sì, parmigiano, beh, certo, più che il tessile avrei detto. Io mi sto aspettando una telefonata da Netanyahu che dice: io non sono musulmano. Esatto, Radio 24. Mi sembrava interessante, diciamo. Traffico, poi ci colleghiamo con Parigi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24. Aspettiamo ancora un po' di interventi degli ascoltatori, sia per il gioco che per gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi. Buongiorno Sergio Nava. Ciao Alessio. Ciao. Buongiorno. Ciao. Come va a Parigi? Insomma, oggi c'è questa importante manifestazione. Tu dove sei? Io ancora sto... Diciamo, stai scaldando i motori. Sto scaldando i motori anche perché è stata una mattinata comunque di continui collegamenti. Tra poco mi muoverò verso l'Eliseo e il Ministero dell'Interno, perché la prima parte della mattinata sarà concentrata lì. Al Ministero dell'Interno, tra l'altro, stanno cominciando ad arrivare i ministri dell'Interno europei e è già arrivato l'americano Eric Holder per una riunione antiterrorismo, e all'Eliseo è già in corso tutta una serie di incontri. È arrivata la comunità ebraica, che è stata incontrata dal presidente francese Hollande. A mezzogiorno riunione del governo francese, all'una arrivano i vecchi capi di Stato, tra cui Nicolas Sarkozy francesi, e piano piano cominceranno ad arrivare anche i 45 più leader mondiali attesi. Sergio, ma tu che insomma di temi di esteri ti occupi sempre da anni, ma a memoria d'uomo te ricordi un rassemblement, per usare un francesismo, così in altre occasioni? No, perché i gravi fatti che abbiamo avuto anche in Europa dopo l'11 settembre, Londra e Madrid, hanno visto una reazione di opinione pubblica molto forte, ma io non mi ricordo assolutamente una marcia, una manifestazione così imponente programmata con rappresentanti mondiali. Cioè, questo è una novità così globale, infatti. un unicum. Sì, assoluta. E anche tra l'altro questo fatto che vi partecipano da un lato il premier israeliano Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen, beh, se vogliamo, questo è un piccolo miracolo che Charlie Hebdo alla fine ha compiuto. Ha messo assieme nella stessa marcia due leader che sono, lo sappiamo bene, insomma, su fronti opposti da diversi decenni, e questo penso sia forse il primo miracolo che nasce, certo, da questo fatto di sangue. Ma volevo farti una domanda, scusa, sono lo stupido dei due, ma volevo farti una domanda. Mi sembra di aver visto che il corteo si svolgerà, diciamo che sono tre cortei che si dividono e poi si riuniscono, è così? No, beh, sono due in realtà. Ah, due. Molto infatti sono lo stupido dei due, giustamente. No, no. ho molto visto male. Questa è una cosa, secondo me, se si guarda un po' la mappa, guardare come cosa tocca questo corteo. Infatti, cioè, infatti. Perché questo corteo di fatto abbraccia la redazione di Charlie Hebdo, perché nei due rami del corteo, all'interno dei due rami, se guardiamo la mappa di Parigi, c'è proprio quell'isola, quella piccola isola dove c'è la redazione di Charlie Hebdo, è come se l'abbracciasse. In più si ferma a un chilometro, arriva a un chilometro dall'ipermercato Kosher, che è stato poi oggetto, insomma, il teatro della presa d'ostaggi venerdì, e si sviluppa lungo l'Avenue Voltaire, e quindi il simbolo dell'illuminismo, se vogliamo, no? Certo. Che è quel valore repubblicano francese di, come dire, laicità, che oggi si va proprio a difendere, no? Quindi c'è tutta una, non so se sia voluto, ma c'è tutto un simbolismo in questo corteo sotto traccia che è molto interessante. Ma me credo che sia voluto. Infatti io quello che mi chiedevo era intanto come mai si separava per poi riunirsi, e soprattutto come si fa a scegliere, e se è una scelta, se uno decide, diciamo, di fare il corteo di sinistra o quello di destra, adesso senza darne una connotazione politica. Penso che sia più un problema di fluidità, sì, allora nessuno sa quanta gente verrà. Si parla di un milione. Ieri Manuel Valls parlava di più milioni, forse questo è un po' esagerato, però è chiaro che avere centinaia di migliaia di persone in marcia, avere un unico percorso, avrebbe significato il caos totale. È una questione di ordine pubblico, diciamo. Sì, e anche fluidità, se vogliamo. Poi tra l'altro ci saranno anche questi 45 leader che cammineranno, ora da quanto ho capito faranno un breve tratto, non faranno l'intero percorso, sono diversi chilometri, saranno 2-3 chilometri, anche perché sarebbe veramente troppo rischioso farli camminare. Quello che succederà sarà che partiranno in autobus tutti quanti dall'Eliseo a un certo punto e arriveranno in un punto non precisato ancora del corteo, ma insomma c'è molta segretezza su quello che avviene, ma lo capiamo anche perché ad esempio noi stessi non abbiamo chiaro cosa farà Matteo Renzi, abbiamo provato più volte a contattare Palazzo Chigi tra ieri e stamattina e non ci sanno dare informazioni, giustificando con motivi di sicurezza. Quindi partiranno in autobus, arriveranno in un punto non precisato del corteo e percorreranno un breve tratto. Un pezzetto. Ma tu pensi che, non ho capito, prima hai detto di Netanyahu e Abu Mazen, è possibile che siano proprio, diciamo, affiancati fisicamente? Non si sa. Sinceramente. Te l'aspetti come colpo di scena? Potrebbe essere un colpo di scena clamoroso. Sì, questo sarebbe forse l'immagine più. Sarebbe un messaggio bellissimo, fortissimo. Senti, Sergio, te l'avranno già chiesto, ovviamente, sei in collegamento per Radio 24 da ore e da giorni. La gente in giro, la reazione delle persone nei bar, per strada, nelle metropolitane, sugli autobus. Parigi è abituata a vivere in un clima da vigipirat, no? I sistemi di sicurezza che scattano spessissimo. Però adesso qual è il livello di panico, di psicosi o anche di voglia di ritornare alla normalità che vedi nella gente attorno a te normalmente girando per Parigi? Ma diciamo che è una situazione molto strana. Se mi avessi fatto la domanda venerdì, la paura era molto alta, il traffico era quasi nullo nonostante un giorno di prende fine weekend che stava iniziando. La gente stava molto in casa, c'era molta paura venerdì. Da venerdì sera e poi fino a ieri anche la situazione si è un po' calmata, devo dire. La gente ha ripreso ieri anche a fare quello che si fa normalmente il sabato, a fare spese, a girare per la città. Ci sono anche molti turisti, ricordiamolo, questa è una città estremamente turistica, per cui si vedono molti turisti passeggiare. Ieri c'era una sensazione, devo dire, abbastanza di normalità, ma dentro questa sensazione di normalità poi se si andava sui luoghi simbolo come la Place de la République, che è diventato ormai il luogo istituzionale di questa commemorazione, di questa veglia continua che va avanti da mercoledì, se si andava, come ho fatto io ieri, alla sede di Charlie Hebdo, dove ci sono c'è un perimetro di sicurezza, c'è un quadrato che fa da perimetro di sicurezza perché ancora la sede è isolata, però ad ogni angolo c'era un altarino con candele, mazzi di fiori, disegni, penne, e gente raccolta in preghiera in silenzio. Cioè, quindi c'è una Parigi che prova a tornare alla normalità, ma nei luoghi simbolo si ferma e prega. Grazie Sergio, un abbraccio. Grazie. Ci sentiamo più tardi su Radio 24 con i tuoi collegamenti, naturalmente col GR, con lo speciale del pomeriggio. Noi tra poco chiudiamo, ma insomma abbiamo fatto anche noi questa tappa a Parigi, ci siamo anche noi. C'è anche il nostro personaggio della settimana che stiamo cercando, vediamo se ci arriviamo con gli ascoltatori, così assegniamo anche oggi catalogo e biglietti per la mostra di Chagall. Andiamo con Giuseppe che ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Proviamo. Buongiorno. E potrebbe proviamo. Essere Magdi Allan. Magdi Allan. Qual è la notizia legata in questa settimana? A parte che è in televisione. Questo non lo so, però, questo non lo so. No, ci chiedevamo se lo se vediamo in televisione qualcosa, sì. Dopo Parigi, diciamo quotidianamente, ma ci chiedevamo se c'era una notizia nello specifico. Comunque non è lui il personaggio. Grazie, Giuseppe. Grazie mille. Grazie. C'è sempre una notizia dietro al nostro personaggio della settimana, un qualche cosa che lo riguarda, che è accaduto, un fatto che è accaduto e che è stato raccontato in qualche modo sui media. Franco da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Secondo me il personaggio in questione è il re di Giordania. Il re di Giordania. Il re, come perché si chiama il re di Giordania, tra l'altro? Dunque Hussein. Hussein. Hussein. Forse lei avrà già capito dal fatto che ho chiesto come si chiama, che non era lui. Beh, era abbastanza svelante la risposta. Sì. Ma però, qual era la notizia sul re di Giordania? Ce la racconta? Ma era trapelata la notizia che avrebbe partecipato a questa sfilata di leader internazionale e con Rania, con la regina. Sì, e allora sì, ci ho pensato, perché è un personaggio carismatico, è vero, molto illuminato e da sempre allineato a posizioni filo occidentali. Sì, è vero. La Giordania a questo punto di vista è un po' un avamposto, diciamo, volendo semplificare, banalizzare, dell'Islam moderato, eccetera, eccetera. Grazie, Lui. Non era lui il personaggio, l'intervento ci stava, la telefonata, anche perché poi il nostro personaggio in genere cerchiamo sempre di infilarci qualcosa che sia una buona notizia. Beh, direi questa volta, ancora di più, così è quasi un terzo indizio questo che ho appena dato. Allora, che facciamo? Sì, ancora un ascoltatore, Marco da Roma, buongiorno. Marco da Roma è scappato. Ah, eccoci qua. Secondo me l'evento è l'attentato al supermercato kosher. E la buona notizia è la mamma dell'attentatore che ha chiesto scusa. Quindi la notizia è molto bello questo intervento. Non hai indovinato, però ci sei andato vicino, diciamo. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? No, niente, ho provato e eccomi qua. Va bene, grazie. Grazie mille. 800 24 00 24. Io farei una pausa, che ce l'abbiamo, no, da fare, e poi andiamo avanti naturalmente. Si può fare cronache da un paese migliore. In the golden rule, American history and practical man. You study him hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. So cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Throw up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner and round the bend. Parliamo di scuola, come si sarà capito dalle note di questa School Days Brescia, iniziativa dei commercianti, quote dell'incasso per aiutare le scuole. Ora, mentre sta. In genere i commercianti a fine anno fanno i conti, se sono andati bene i saldi e lo shopping di Natale, perché è il momento nel quale si racimola il massimo possibile. Qua c'è un po' di generosità, si mette da parte qualche cosa per le scuole, le casse delle scuole esangui, vogliamo dirlo? No, sì. Questa non è una buona notizia. Le scuole però hanno spesso difficoltà a reperire tutto il materiale necessario, lo sanno che i genitori che hanno dei bambini, scuole materne, scuole elementari, medie e superiori. La vera cosa da chiedersi è perché è molto bello che noi ce ne occupiamo in un altro modo e troviamo, diciamo, il modo per risolvere questo problema, però vorremmo, diciamo, che il problema non ci fosse. Vorremmo che lo risolvesse lo Stato con le nostre tasse e non noi singolarmente di nuovo sborsando dei soldi andando nei negozi a comprare delle cose. Però tant'è, l'iniziativa è questa e ci aiuta anche a entrare in tema di scuola. Noi salutiamo Claudia Taurisano, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ex buongiorno. Assessore, siamo a Brescia, ma in qualità di appartenente a My Office, che è la società che è ideatrice di questo progetto Mio Amico per la Scuola. Spero di aver detto tutto correttamente, ci racconti lei. Intanto una piccola correzione, il progetto è stato ideato in collaborazione con Onoma, che è un'agenzia di comunicazione specializzata in siti web, comunicazione in genere, team building, e l'abbiamo ideato io come persona fisica, agente di commercio e Onoma per l'appunto. E, leggendo un po' il momento storico, come ben dicevate all'inizio, c'è da una parte gli enti locali con la spending review e tutti gli impegni di spesa corrente che sono difficili, insomma, con i fondi difficili da reperire, dall'altra parte la difficoltà degli esercenti di poter perché insomma la crisi ha colpito tutti, e quindi si è pensata un'operazione di mutuo aiuto dove gli esercenti si promuovono all'interno dei 150 istituti cittadini, e dall'altra parte le scuole si agevolano, quindi di questa donazione che ogni esercente decide nella percentuale e nei giorni. Quindi se entro magari a spiegare un pochettino come funziona, se mi consentite, non vorrei essere noiosa. No, anzi, anzi, ci interessa capire il meccanismo. A noi ci interessa la parte pratica. Sì, però insomma, so che parlare tanto a volte ammorba. Però diciamo che vengono distribuite, gli esercenti hanno aderito, sono stati pubblicate delle cartoline e che vengono distribuite a tutti i bambini all'interno delle scuole. Poi ci sono le locandine, c'è un sito internet dedicato che è www.miamico.it. dove c'è spiegato tutto il progetto, c'è l'elenco geolocalizzato degli esercenti aderenti. Ogni esercente ha deciso quale percentuale di donazione fare sulla spesa effettuata dalle famiglie, quindi le famiglie vanno nei negozi convenzionati, acquistano, e una percentuale, diciamo il 10% per fare un esempio, viene scritta sulla cartolina. I bambini possono scrivere anche la loro classe se preferiscono e la scuola, e viene imbucata in un'urna posta vicino alla cassa. Ma mi scusi, cioè, per capire, io sono lo stupido dei due, ma devo capire questa cosa. Io entro in un negozio, compro una maglietta da 5 euro, questo è un negozio che il giovedì aderisce a questa iniziativa, quindi dà il 10% di tutto quello che spendo alla scuola. A questo punto io spendo 5 euro, il 10% sono 50 centesimi, io scrivo sulla cartolina sono della terza B di quell'istituto lì, dell'istituto Calini, e ho speso 5 euro, perché semplifica, ho speso 5 euro, noi sappiamo che quell'esercente dà il 10%, per cui i famosi 50 centesimi vengono accantonati. Sì, e poi com'è che arrivano in quella classe? Si fa la rendicontazione delle cartoline all'interno delle urne periodicamente, e questo anche per garanzia di trasparenza, quindi noi che abbiamo organizzato facciamo il giro degli esercenti aderenti insieme ad un addetto del comune di Brescia, si fa il conteggio, quindi l'esercente partecipa al conteggio, si fa la rendicontazione, e tal negozio diciamo che ha accumulato, facciamo un esempio, 100 euro. Sì. A quel punto l'esercente acquista 100 euro che darà in donazione alla scuola. Perfetto. Ma è ognuno... da momento, in tante scuole diverse, questi 100 euro sono un euro per un istituto, 20 centesimi per un'altra classe. Vedremo di fare l'incrocio dei dati tra le scuole prescelte, perché è giusto anche che i bambini che si sono sensibilizzati, insomma, c'è anche un'idea educativa. Ma la domanda, la curiosità mia è questa: ognuno dona per sé, non ho capito, oppure si può donare, io posso donare anche per un'altra scuola? scuola o se non ho figli a scuola voglio comunque donare qualcosa. Ecco, no, no, no, ognuno può fare quello che vuole, perché anche i cittadini, chiaramente i cittadini sostengono la scuola. È chiaro che ai bambini viene insegnato anche quella che è il potere d'acquisto virtuoso, sì, chiaramente in questo senso. Avete fatto una prima stima di quanto state raccogliendo? È possibile o sono le ancora chiuse ancora, le urne? Perché, no, perché è partito tra una cosa e l'altra, che non è stato facilissimo farlo partire. È partito il 20 di novembre, il 21 di novembre. E quando si chiuderà? Ma si chiuderà con la fine dell'anno scolastico periodo sperimentale, però pensavamo di far passare il periodo natalizio, adesso con la ripresa delle scuole fare il primo giro per vedere com'è andata, insomma, un po', diciamo, la vendita del Natale. Poi devo anche spezzare una lancia importante a favore degli esercenti, perché noi come idea avevamo escluso implicitamente il periodo dei saldi, e invece gli esercenti, quelli che hanno aderito, hanno rinunciato a questa previsione che avevamo fatto noi, insomma, a questa possibilità, e quindi anche nel periodo dei saldi ci sarà, il progetto andrà avanti, e addirittura qualche esercente ha previsto anche uno sconto per l'avventore, quindi in alcuno degli aderenti, se uno entra, può avere uno sconto diretto come cliente, in più una parte in donazione alla scuola. Quindi gli esercenti hanno recepito con grande entusiasmo questa idea di promozione, ma anche di possibilità di farsi conoscere, ma di restituire anche alla città un qualche cosa. Quando la crisi aiuta, diciamo. Ma Dio, speriamo che aiuti, perché adesso stiamo scommettendo, però aiutiamoci a vicenda, giusto, un po' il motto. Certo. Senta, invece poi questi soldi nelle scuole, si sta già discutendo un po' come potrebbero essere spesi per piccole cose di cancelleria, o ci sono anche magari dei progetti più ampi che si sta pensando di poter realizzare con questi fondi? Per adesso no, siamo stati contattati da altri esercenti che vorrebbero aderire, e il progetto è aperto. Ma ci hanno contattato anche i comitati genitori, e quindi stiamo un po' aspettando di vedere. Chiaro che ogni istituto è libero di fare le sue scelte in base anche al piano di offerta formativo della singola scuola, ma non si esclude niente. Voglio dire, My Office, che è appunto il fornitore di cancelleria, la mia SRL, fornitore di cancelleria, ha un catalogo grandissimo, con più di 10.000 articoli, addirittura le LIMMA catalogo, quindi va bene. Le risme di carta, sì, le risme di carta, ma se una scuola riesce ad accantonare anche un po' di soldini, si può anche pensare a qualche cosa di più innovativo. Non ci sono preclusioni sul progetto formativo della singola scuola. Bene, noi facciamo i nostri complimenti, in bocca al lupo per come andrà questa iniziativa, che con la premessa che abbiamo fatto prima e che anche lei condivideva, insomma, che in un altro momento, in un altro mondo, in un'altra situazione, forse di iniziative come queste potrebbe anche non esserci bisogno, o quantomeno potrebbero non essere, come dire, necessarie per la stretta sopravvivenza, ma per fare cose in più. Invece in questo momento la scuola ha bisogno un po' di generosità, ogni tanto fa bene, così serve a risvegliare, lo diceva anche lei, un po' l'interesse, l'attenzione anche verso la scuola, al di là poi dei risultati economici che sicuramente ci saranno per questa iniziativa. E ancora in bocca al lupo, grazie. Io ringrazio voi, saluto tutti, ma devo fare un ringraziamento un po' particolare, oltre agli esercenti che ho citato molte volte, e se volete andarli a vedere sul sito www.miamico.it è comunque una buona cosa, perché sono proprio gli esercenti virtuosi, ecco, non di quelli dei quali si parla di solito nei giornali, e poi all'assessore del Comune di Brescia, Roberta Morelli, che ha dimostrato la sensibilità ed ha accolto la nostra idea. Benissimo, ottimo, grazie. Grazie mille, buona domenica. Grazie a voi, buongiorno, buongiorno. E questa era l'iniziativa Brescia 800 24 00 24. Non ha chiamato nessuno oggi, c'ho un po' un cruccio per questo. Sulla pista ciclabile, sulle mura di Grosseto. È vero, hai ragione, è vero, l'avevi data con tanta enfasi. Ragazzi, qua vogliamo sapere perché c'è questa petizione contro la pista ciclabile sulle mura di Grosseto. Amici grossetani, che a quest'ora vi state bevendo un caffè, mangiando un croissant al bar, siete in macchina, state andando in giro, siete a casa, state ascoltando la radio, io voglio sapere perché ce l'avete con la pista ciclabile di Grosseto. Non c'entra nulla adesso dirlo, però siamo, se no, ci facciamo una trasmissione tutta su questa cosa, settimana, quindi chiamate prossima, settimana prossima. Andiamo con Giovanni da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire a proposito di questa iniziativa commerciale, io definirei, sì, perché sarebbe molto più semplice, anzi è molto più semplice, che i genitori versassero il loro contributo volontario sul conto corrente della scuola, dove c'è un consiglio d'istituto che delibera e che programma l'attività didattica, formativa e sì, quant'altro, con una semplicità immensa e con un... Sì, è vero, Giovanni, lei ha ragione, però sa, cioè, ora, in realtà, scusi, mettere, sì, lei ha figli a scuola? Se ci vogliamo mettere pure sì, il commercio, prego. Sì. No, le chiedevo se lei ha figli che vanno a scuola. No, io sono un operatore della scuola. Ah, un operatore. No, il suo punto di vista, proprio, Giovanni, proprio, mi scusi, mi faccia dire una cosa, poi la faccio proseguire. Giovanni, un secondo, volevo dire una cosa. Lei sì, ha ragione, sì, si può fare anche così, si potrebbe fare così, dei versamenti, però in queste cose spesso si vuol creare anche, come dire, un clima, no? Di discorso, di partecipazione, si fanno i mercatini delle cose usate per raccogliere cose per la scuola, cioè è un po' anche quell'idea lì che si vuol sollevare. Poi certo, cioè, non può fare anche un versamento, ammesso che la scuola metta a disposizione un conto corrente da questo punto di vista. Senza ammesso, sì, è obbligatorio che la scuola abbia un unico conto, ecco, corrente. Sì. Quindi lì possono arrivare tutti questi contributi volontari stabiliti precedentemente o dal consiglio d'istituto, dove voi sapete. Sì, ma mi scusi, forse io però non ho voglia di pagare il mio contributo volontario alla scuola, quindi questo sistema qui in realtà scavalla questo problema. Ma perché io devo? Io già pago le tasse e forse non ho voglia di pagare anche il contributo, ma nel momento che vado a comprare qualunque cosa in un negozio di Brescia, in un negozio che aderisce a questa iniziativa, una piccola parte di questi soldi va alla scuola dei miei figli. Questo è il concetto. Perché dovrei autotassarmi nel momento che devo andare a scuola? Per un semplice motivo, perché tuo figlio all'interno di quella scuola lì poi potrebbe avere tranquillamente una programmazione approvata dai genitori. Sì, stessi. Sì, ma queste si chiamano già avviene normalmente. Va bene, Ermanno. Grazie. Sì, no, non è Ermanno, questo era Giovanni. E invece voglio parlare proprio con Ermanno da Grosseto. Buongiorno. Vado un po' di corsa perché siamo in chiusura, vogliamo sentire ancora un po' di ascoltatori. Dobbiamo assegnare il premio e c'è anche Giorgio De Luca in studio con noi. Buongiorno. Ciao Giorgio, lo sentiamo? Giorgio? Buongiorno. Eccolo qua, adesso poi... Finalmente sentite la voce di Giorgio De Luca. Io sono felicissimo di questo momento. Sono un sogno. Sono felicissimo. Poi spieghiamo anche perché. Okay. L'applauso perché Giorgio De Luca è qua con noi. Intanto sentiamo Ermanno da Grosseto, buongiorno. Ermanno, prego, tocca a lei. Abbiamo fatto buongiorno, sono Ermanno. Buongiorno Ermanno. Dunque, la ciclabile sulle mura, ci si sta stretti anche passando in tre persone sulle mura di Grosseto. Ah. E quindi lei è stato sulle mura di Lucca e sono bellissime, sì, 10 volte più grandi, sì, e sì, ci si sta benissimo. Quindi il problema principale per lei è per cui questa... Diciamo anche il degrado che effettivamente c'è. Io un bel negozio in una casa diroccata non la costruirei, prima farei la casa e poi ci farei il negozio, che dice? Però quello che io dicevo è, non è che l'occasione per fare la pista ciclabile diventa anche l'occasione per riqualificare le mura, sì, no? Non è questo il progetto? Il problema sì, ci potrebbe anche stare, però il problema che anche io ritengo è che in alcuni punti tre persone quando passeggiano non fanno passare una bicicletta. Va bene, questo è un limite oggettivo. Si può passeggiare in due più una bici, diciamo. Giusto? Coppiette con bici. Allora possiamo portarla anche in spalla. Certo, giusto. La ringraziamo molto comunque. Finalmente, grazie comunque Ermanno. Una voce da Grosseto. Ha raccolto il nostro invito, il nostro appello a parlare di questa contestata pista ciclabile. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora 800 24 00 24, ancora per qualche minuto per stare insieme con gli ascoltatori, ma a questo punto per stare insieme con una persona il cui nome avete sentito tante volte, tutte le volte, sabato e domenica, ma anche tante altre volte a Radio 24, certo. Perché Giorgio De Luca, eccomi qua, ah, di nuovo buongiorno. Buongiorno. Il nostro uomo della redazione, il nostro capo redattore, il nostro assistente alle dirette, il nostro badante, cioè, ecco, una serie di cose che è meglio fermarci qua, esatto. Ecco, no, badante qua. Invece io ci tengo a dirlo, sì, perché per me, io devo ringraziare tantissimo invece Giorgio De Luca, no, perché è stato assolutamente il mio badante da quando ho iniziato qui dentro a fare lo stage. Mi ha spiegato tutto quello che so. È brutto dirlo perché so talmente poche cose che non ci fa una bellissima figura il povero Giorgio De Luca, invece è bravissimo e mi ha insegnato tutto, e quindi io lo devo ringraziare molto e sono felicissimo che sia qua al nostro fianco finalmente, perché però in realtà dovrebbe parlare lui. Io non me ne vado, sì. No, mi sposto, infatti, solo di qualche banco, diciamo questo, che sono gli ascoltatori che non hanno seguito, perché poi se gli ascoltatori sono attenti avranno già capito, seguito, sanno, abbiamo annunciato spizzichi che Giorgio De Luca passa alla redazione di Tutti i Convocati, allo, esatto, Sport, e io sono tristissimo. Cambia la sua vita, però lui cambia la sua vita dopo 5 intanto anni, diciamo che cambia la sua vita, e 3 mesi di weekend, di weekend, tutte le dirette, ecco, il gastronauta, l'altra Europa, adesso c'è Taddea, adesso si può fare, il tuo mondo è stato questo per tutti, tutto, questi anni, tutti, ed è stato un po' anche il nostro, le ho fatte tutte le dirette del weekend, adesso basta, è bellissimo anche adesso solo sentire la voce di Giorgio De Luca, vado a fare una vita più regolare lunedì e venerdì, lunedì, tutti lunedì, convocati lo sport, che poi anche alle 16 è il suo grande, la sua grande passione, anche se contributi di idee, anche se la tantissimo mia avventura più bella a Radio 24 è stata Si può fare. Oh, e vi ringrazio per questo. Ma lo dici in tutte le trasmissioni? Io ho già la registrazione. E ringrazio Alessio per aver creduto sempre nelle mie idee. E Carlo, io a te ti dico, un giorno la condurremo insieme alla prossima influenza di Alessio. Questo è bellissimo. Questo sarebbe anche potuto succedere. È vero. Grazie. Io ho le registrazioni audio di quando Giorgio De Luca ha già detto questa cosa altre 5 volte per altri programmi. Ce l'ho. Non è vero. Finalmente lo riconsegniamo al mondo. Diciamo Giorgio De Luca, perché dopo 5 anni e 3 mesi che è sempre stato chiuso nei weekend dentro Radio 24, adesso finalmente lo troverete in giro il venerdì e il sabato sera a ubriacarsi. E invece noi restiamo qua, noi il sabato e la domenica qua. Allora c'è Federico Taddea, però ancora un secondo, perché io devo anche sentire Francesca, Roberto dalla provincia di Siena. Buongiorno. Roberto, se ci ascolta con viva voce, tolga viva voce, per cortesia. Sì, eccomi qua. Ecco, perché altrimenti non sentiamo nulla. Prego. Allora, il personaggio, secondo me, è il commesso del supermercato che ha tratto in salvo, chiudendoli dentro la cella frigorifero, quelli che erano i clienti del supermercato. Bravo Roberto. Complimenti, un eroe, un ragazzo, un eroe vero, un ragazzo musulmano che si trovava dentro nel negozio, Lassana Batli, credo che si pronunci, 24enne, esatto, d'origine malese, sì. E ha aiutato e ha nascosto degli altri clienti, anzi dei clienti, perché lui in realtà è un commesso. Un po' di coraggio, è stato definito un eroe, sicuramente poi è uscito, ha stabilito un contatto con la polizia e ha fatto tutto questo. Sarebbe bello, diciamo, che ci si ricordasse soprattutto di lui, di questa 3 giorni terribile parigina. Grazie Roberto. Lei vince i biglietti e il catalogo per la mostra di Chagall. Ah, dopo a biglietti Milano. Pensavo lei vince i biglietti per andare a Parigi, adesso di corsa deve fare le valigie e andare alla manifestazione. Sarebbe meraviglioso, tra l'altro ho vissuto per un po' a Parigi e devo dire che questa cosa mi ha sconvolto anche nel ricordo dei momenti meravigliosi che la città offre proprio come ospitalità. Facciamo quindi, che organizza un viaggio per Parigi passando per Milano, dove può venire a vedere la mostra di Chagall. Grazie Roberto. Grazie adesso mille. È il momento di Federico Taddea del crowdfunding. Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere e non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Eccoci qua, ciao Federico, buona domenica. Buona domenica a voi, sono ancora commosso dopo aver sentito Giorgio De Luca, Anche lui sentirà la mia mancanza. Ricordiamo che è stato tra l'altro il primo a lanciare una sorta di crowdfunding emotivo un paio d'anni fa, quando lanciò l'iniziativa Una donna per Giorgio De Luca. È vero, sì, la donna di Giorgio, la donna di Giorgio era. è vero. Purtroppo fallito. Non l'abbiamo mai trovato. Siamo ancora in tempo, volendo. La facciamo diventare il personaggio della settimana di Si può fare, prima o poi, e vedrai che la troviamo. Okay. Quella è chi l'ha visto. Allora, eccoci qua con un paio di segnalazioni anche oggi, con la nostra vetrina del crowdfunding. Partiamo da un'iniziativa molto bella, che è finalizzata a costruire dei Fab Lab nelle scuole superiori italiane. Voi avete parlato molte volte del Fab Lab. È stata lanciata questa iniziativa dalla Fondazione Nord-Est. L'idea è proprio quella di finanziare la creazione dei Fab Lab all'interno di istituti di scuole superiori, perché il Fab Lab di fatto è il nuovo laboratorio artigianale, è dove veramente i ragazzi per la prima volta possono affacciarsi al mondo del lavoro. Quindi è stata lanciata questa iniziativa, il portale è fablabscuola.it, ci sono già le prime scuole coinvolte con progetti come sempre assolutamente innovativi. Per esempio l'ITIS Rossi e la fondazione ITS Meccatronico Veneto di Vicenza è un istituto dove stanno sperimentando con i ragazzi delle scuole superiori la costruzione dei droni per attività varie. Per esempio realizzare riprese video su Venezia galleggiando sulle acque della laguna, droni che fanno da guide turistiche. E adesso hanno lanciato questo crowdfunding, l'obiettivo è raccogliere 10.000 euro per realizzare droni in grado di trasportare farmaci salvavita in situazioni di emergenza. Insomma, secondo me questo racchiude un sacco di cose, la creatività, la scuola che ci piace, no? Quando la scuola guarda al futuro, e questa richiesta di 10.000 euro per poter continuare in questo progetto dei droni. Sempre all'interno di questo progetto c'è un'altra scuola, che è il Centro di Formazione Professionale Canossa di Trento, che invece ha in mente un Fashion Fab Lab, e anche loro raccolgono, sono alla ricerca di fondi per acquistare un body scanner per una scansione tridimensionale del corpo dei potenziali clienti anche a distanza, quindi ti realizzano vestiti a distanza. Insomma, mi sembra un'ottima cosa, è veramente è il futuro, che però è già presente. Per adesso sono coinvolte le scuole del Nord-Est, vi ricordo ancora il sito, che è fablabscuola.it. Vi sento perplessi? No, aspettavamo le ricompense. Aspettavamo il momento ricompense, che ci piace sempre moltissimo. Sai che qui il momento ricompensa non è previsto. Si dà il cambio. Ci hai insegnato una cosa, ci hai educato ad aspettarci ogni volta una ricompensa. Vabbè, questa volta. Niente ricompense, va bene. Vai. Invece sono molto divertenti, le molto divertenti, sono particolari le ricompense lanciate dal Museo dello Sport di Torino. Non so se lo sapete, ma a Torino c'è un Museo dello Sport che di fatto è unico. Abbiamo qua il nuovo redattore di Tutti i Convocati, che sicuramente che è Giorgio De Luca. Prego. È all'interno dello Stadio Olimpico ed è un museo che ripercorre lo sport dal punto di vista delle grandi imprese, delle imprese epiche, quindi lo sport dei valori, lo sport delle storie, lo sport dei personaggi. Questo museo è non tanto conosciuto e soprattutto è a corto di finanziamenti, quindi l'associazione Amici Museo dello Sport ha lanciato un crowdfunding però a livello mondiale. Abbiamo un minuto adesso, ti lo dico, Federico, che poi dobbiamo chiudere. Oltre confine, anche qui l'obiettivo è quello di raccogliere $50.000, e le donazioni partono da un minimo di $1 fino a quello che uno vuole. 3 ricompense, puoi diventare amico del museo, con €25 ricevi una lettera di ringraziamento, con €200 targa di presentazione e ingresso gratuito a un evento dello Stadio Olimpico, con €1.000 potrai passare una giornata all'interno del museo con un campione a tua scelta. Ma belle ricompense, un po' care, ma belle le ricompense. Grazie Fede, ci sentiamo domenica prossima. Ciao. Buona domenica, ciao. Ciao, buona domenica. Bocca al lupo, ragazzi. Questo punto, bocca al lupo a te, Giorgio. Io voglio ringraziare. Bocca al lupo a noi, che senza Giorgio siamo veramente. Voglio ringraziare Giorgio De Luca, perché lui ha creduto in noi, e voglio fargli un grandissimo in bocca al lupo per il programma sportivo. Poi insomma siamo qui, vicini di scrivania. Sì, sì. Resta il nostro angelo custode, l'ha detto. Assolutamente sì. Io ci credo. Io vi tengo d'occhio. Ma io ci tengo assolutamente, occhio, perché ragazzi, ne ho bisogno. Infatti ricordo solamente che Giorgio De Luca è anche colui che mi chiamava la mattina per svegliarmi, e quindi io non ci sarò mai più, credo. Cari ascoltatori, ci risentiamo sabato prossimo. Grazie anche naturalmente ad Andrea Piana, autore del programma, Lucia Tolve in assistenza e redazione quest'oggi, Peter Bescapa in regia. A sabato prossimo. Ciao, ciao, ciao Giorgio. Ciao.